Buona giornata alle 13 in punto, una buona giornata da Enrico Pagliarini dalla redazione per questa puntata di Effetto Giorno. Iniziamo con una notizia dell'ultimo minuto. Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli esteri. Questa mattina Federica Mogherini ha rassegnato definitivamente le dimissioni. Sapete che la Mogherini è il nuovo, chiamiamolo, ministro degli esteri dell'Unione Europea. Cresce il numero di occupati in Italia, ma sale anche la disoccupazione. Sempre più gente è in cerca di lavoro, ma non lo trova. E caos in Burkina Faso, la piazza contro il governo. Questa è la notizia principale di questa giornata che, come vi dicevo poco fa, ci ha prospettato una notizia, una nuova notizia, cioè il nuovo ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, è stato nominato questa mattina. Stefano Folli, buongiorno. Ti aspettavi questa scelta? No, onestamente no, perché era un nome che non è mai apparso, no, in questi giorni, però è il frutto di quell'impasse che si era creato, per cui i candidati del Presidente del Consiglio avevano incontrato il dissenso del Capo dello Stato e alla fine si è arrivati a questa soluzione che evidentemente presenta le caratteristiche giuste, perché Gentiloni è un uomo di grande esperienza, di grande equilibrio, è amico di Renzi e al tempo stesso però, diciamo, è un uomo anche di mediazione, di raccordo, quindi anche dal punto di vista politico è un profilo che di un uomo che potrà fare molto bene nel governo. Si abbandona, diciamo, il principio un po' astratto per cui uomini e donne devono essere in pari numero nel governo, in favore di una scelta che sicuramente ritengo che sia molto opportuna, così come è molto opportuno che il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio abbiano trovato un punto di compromesso e di accordo, perché non ci possiamo certo permettere una frattura al vertice istituzionale. Questa potrebbe essere una scelta che potrebbe farci riguadagnare spazio in generale all'estero, ma soprattutto in alcune aree dove storicamente l'Italia aveva un ottimo servizio diplomatico e forse negli ultimi anni abbiamo un po' perso terreno. Faccio riferimento ad esempio al Medio Oriente. Ma sì, io penso che Gentiloni avrà molto da fare perché, insomma, effettivamente l'Italia ha bisogno di essere presente nell'area mediterranea anche rispetto al problema dell'immigrazione, nell'area medio orientale, ed è un uomo che può vantare una capacità di comprensione dei meccanismi politici, oltre, come dicevo, di esperienza personale, che lo possono rendere l'uomo giusto in questo momento. Ripeto, è importante che Renzi e Napolitano si siano accordati tutto sommato abbastanza in fretta, mi sembra, al di là della piccola impasse dei giorni scorsi, e penso che la soluzione sia opportuna. Bene, Stefano, noi ti ringraziamo, ma ti ringraziamo anche per la collaborazione con il Sole 24 Ore, con Radio 24, perché oggi termina e lascio che ti ringrazi, oltre che per la competenza, la chiarezza, anche per la capacità di sintesi che alla radio è molto importante, perché tu tutte le mattine a Radio 24, molto presto, in meno di un minuto, insomma, ci davi un po' il punto della situazione. Grazie, ma l'ho potuto fare perché Radio 24 e il Sole 24 Ore sono dei magnifici giornali e una magnifica radio, e quindi è stato grazie anche all'aiuto di tutti voi che questo è stato possibile. Molto bene, noi naturalmente ti ringraziamo ancora e ti auguriamo buon lavoro, a presto. Le 13 e 3 minuti 45 secondi, allora, dopo questa notizia dell'ultimo minuto di Paolo Gentiloni nominato nuovo ministro degli esteri al posto di Federica Mogherini, passiamo ai numeri che descrivono in sintesi la situazione del lavoro in Italia. Secondo l'Istat cresce il numero dei posti di lavoro, scende leggermente la disoccupazione giovanile, ma in generale sale la disoccupazione. Perché? Perché ci sono più persone che dichiarano di essere in cerca di un lavoro. È un filo di speranza per il lavoro in Italia quello in arrivo oggi dai dati dell'Istat. Cresce il numero dei posti di lavoro e scende leggermente la disoccupazione giovanile. Secondo le stime provvisorie dell'Istituto Nazionale di Statistica, a settembre gli occupati sono oltre 22 milioni, un aumento dello 0,4% rispetto ad agosto. Inoltre a settembre la disoccupazione giovanile è tornata a calare, scendendo al 42,9% dopo aver toccato nel mese precedente il picco massimo del 43,7%. Pur crescendo il numero totale dei posti di lavoro disponibili, però, i dati Istat sottolineano che cresce anche il numero di gente che cerca lavoro e non lo trova. Il tasso di disoccupazione a settembre, infatti, è salito al 12,6%, riportandosi sui massimi livelli e aumentando dello 0,1% rispetto ad agosto. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è stata una lieve ripresa dell'inflazione a ottobre. Dopo due mesi di deflazione i prezzi tornano a salire, anche se è di molto poco. Secondo le stime provvisorie dell'Istat, rese note questa mattina, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,1% sia su base mensile che su base annua. Resta invece invariato rispetto al mese scorso il prezzo del cosiddetto carrello della spesa, cioè dei beni alimentari per la cura della casa e della persona. Quindi non cambia nulla da questo punto di vista. Numeri che naturalmente non cambiano di certo il quadro economico del paese, li avete sentiti, insomma, cambiano di molto poco, quindi rimane in primo piano lo scontro fra sindacati e governo. Sempre alta la tensione tra governo e sindacati, basta Leopolde, basta saltare le mediazioni che sono spazi di democrazia. Il leader della FIOM Landini dalle pagine di Repubblica torna a incalzare l'esecutivo accusandolo di aver assunto il programma degli industriali e sottolineando che quanto accaduto a Roma è di una gravità senza precedenti, anche se, aggiunge, le risposte arrivate dal governo fanno pensare che episodi di quel genere non si ripeteranno più. Quanto alla crisi della ThyssenKrupp e al rischio smantellamento del polo siderurgico di Terni, la ricetta di Landini è la acciaio di Stato. Se non vogliamo svendere o regalare la siderurgia agli stranieri, dice il leader dei metalmeccanici, è indispensabile che lo Stato faccia la sua parte. Intanto il sindacato si prepara allo sciopero generale annunciato ieri 8 ore entro novembre, due manifestazioni a Milano il 14, a Napoli il 21 novembre. Un programma di battaglia per dire no al Jobs Act e agli scontri di piazza degli operai di Terni con le forze dell'ordine a Roma. E dal governo questa volta tenta di smorzare i toni il ministro del lavoro Poletti. Non c'è nessuna preoccupazione per lo sciopero e le manifestazioni, sono iniziative legittime, mentre quanto accaduto a Roma è stata un'eccezione, una brutta giornata che vogliamo non si ripeta mai più. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi c'è stato uno sciopero e una manifestazione dei metalmeccanici a Genova. Andrea Ferro in diretta, buongiorno, qual è la situazione, Andrea? Sì, buongiorno Enrico. Un pezzo di quel che resta della Genova operaia oggi ha manifestato per le strade del Ponente, un messaggio corale di solidarietà ai lavoratori della ThyssenKrupp di Terni dopo i tafferugli di mercoledì a Roma, un segnale in vista dello sciopero generale proclamato dalla FIOM a novembre, un monito di fronte ad una serie di delicatissime vertenze aperte per salvaguardare centinaia e centinaia di posti di lavoro in bilico a Genova come altrove. Stamane quindi 4 ore di sciopero, un corteo di oltre 1000 persone che si è mosso tra Cornigliano e San Pier d'Arena, un tempo il polo del triangolo industriale che fu. Nessun poliziotto in divisa lungo il percorso, solo sparuti agenti della Digos sparpagliati ai margini della manifestazione. Slogan durissimi contro Renzi, tipo se Renzi è di sinistra, Berlusconi è femminista, contro la polizia, contro i manganelli. Nessun momento di particolare tensione, petardi e fumogeni e l'ansia per un futuro incerto. In mattinata un altro corteo si è mosso dalla zona delle riparazioni navali e ha raggiunto la prefettura, traffico in tilt in mezza città, ma ora la situazione è tornata alla normalità. Ti restituisco la linea. Grazie dunque ad Andrea Ferro. Un altro fronte, quello che vede contrapposto il governo e le amministrazioni locali. Il problema è noto, la legge di stabilità taglia nuovamente i trasferimenti dallo Stato ai comuni, taglia ulteriormente, diciamo, i trasferimenti dallo Stato ai comuni. Le amministrazioni locali, stiamo parlando sostanzialmente dei comuni, si preparano al congresso nazionale la prossima settimana, congresso nazionale dell'ANCI. Buongiorno a Guido Castelli, sindaco di Ascoli e delegato alla finanza locale dell'ANCI. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io ho detto il problema è noto, forse non proprio a tutti i cittadini. Allora, sostanzialmente di quanti soldi stiamo parlando? Ma stiamo parlando di quasi 4 miliardi di euro, perché oltre al taglio di Stato, che è di 1,5 miliardi, c'è un taglio occulto che probabilmente pesa e morde più del dichiarato, e diciamo che complessivamente lo sforzo sarà di 4 miliardi, ma non sono solo le cifre, i termini assoluti che preoccupano, soprattutto preoccupa il fatto che noi veniamo da 5 anni in cui complessivamente il sistema dei comuni ha contribuito ai saldi di finanza pubblica per 18 miliardi, quindi 18 miliardi più 4, insomma, veramente che rischia, al di là, voglio dire, della qualità delle amministrazioni locali, di far pagare nuovamente al cittadino il costo di questa drastica cura dimagrante, perché alla fine dovremo toccare, soprattutto noi sindaci, nel caso di Ascoli, che abbiamo negli anni tagliato gli eccessi di spesa, dovremo alla fine ridurre i servizi. Questa è una clamorosa esempio di come in realtà non si rischia di assistere a un vero e proprio taglio di tasse, ma semplicemente a un trasferimento di responsabilità fiscale dal centro alla famiglia e alla periferia, e questo credo che sia l'effetto più deleterio per la società alla fine. Senta, qual è il vostro giudizio sul dialogo, se esiste un dialogo e non so a che livello è profondo, con il governo? Perché in altri ambiti non è che ci sia molto dialogo. No, io devo dire che ci siamo visti 2 giorni fa, noi sindaci dell'ANCI, proprio con Premier Renzi, e ci rivedremo martedì. Molta cordialità, devo dire una sincera amicizia, però questo clima da rimpatriata non ha impedito all'ANCI proprio di accusare con molta forza come a carico dei comuni ci siano dei tagli, come dicevo prima, occulti, che non sono stati neanche contabilizzati, e questo è un fatto tecnico che cercherò di spiegare proprio in maniera brevissima. Dal 1 gennaio 2015 tutti i comuni italiani dovranno applicare una nuova contabilità. Questa nuova contabilità imporrà di accantonare risorse, quindi di non spendere circa 2,5 miliardi in relazione a crediti vecchi che noi dobbiamo togliere per una ragione di trasparenza nei nostri bilanci. Un'opera giusta, necessaria, che renderà più limpidi i nostri bilanci. Ecco, se solo si contabilizzasse come effettivo sforzo questa somma importante di 2,5 miliardi, ecco che il taglio potrebbe essere infinitamente minore. Quindi parliamo non di natura virtuale delle cose, ma di cose concrete. Noi in sostanza dovremo avere, come tutti, l'obbligo di contribuire a questo anno orribile che si chiama 2015, però lo vorremmo fare senza dover rinunciare alle protezioni sociali ormai di base che solo i comuni assicurano a tutte le fragilità cittadine e urbane, perché insomma la crisi morde, la crisi è reale, quindi allontanare il welfare proprio ora, quello di base, parlo dell'assistenza di disabili, degli asili nido, non fumisterie o alchimie, come dire, da periodi ormai superati degli anni scorsi, proprio cose concrete. Ecco, attenzione, perché scassando le protezioni sociali si rischia, voglio dire, che certe tensioni a Roma, docet, possano poi riverberarsi in un 2015 già complicato. Quindi è certo che verranno tagliati i servizi, non c'è spazio per risparmi ulteriori anche nelle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo dire la verità, in molti comuni ancora c'è spazio, perché responsabilmente sugli 8.000 e passa comuni italiani ci sono quelli più virtuosi e quelli meno virtuosi, questo è un dato, però il problema è che il taglio è lineare e va colpendo, come nel caso di Ascoli, anche chi negli anni scorsi aveva, come dire, contrastato l'obbligo di tagliare proprio con, voglio dire, azioni concrete. Le fregature, mi sia passato il termine, sono proprio per i comuni virtuosi, quelli che nel tempo hanno tagliato e che ora non hanno più niente da tagliare, sì, mentre sì, coloro i quali invece allegramente si erano resi indifferenti al richiamo di probità degli anni scorsi, ancora c'hanno margine. Ecco, questa è la cosa inaccettabile, rischia di essere una finanziaria in cui gli spendaccioni, paradossalmente, sono quelli che alla fine saranno beneficiati da questa strana modulazione di tagli. In effetti lei ha ragione su questo punto, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Arrivederci, grazie. A presto. Arrivederci. Sono le 13:13, questa è Radio 24, questo è Effetto Giorno, adesso parliamo di una novità che riguarda circa 20 milioni di italiani. Una rivoluzione epocale per i contribuenti e il sistema italiano, ha definito così l'arrivo del 730 precompilato Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate. La novità approvata dal Consiglio dei Ministri scatterà per i redditi 2014 e dunque nelle dichiarazioni da presentare nel 2015. Riguarderà una platea di 20 milioni di persone, tra pensionati, lavoratori dipendenti, ma più in là verrà applicata anche agli autonomi. Nella dichiarazione vi saranno i dati già contenuti nell'anagrafe tributaria, ma anche quelli trasmessi da soggetti terzi come banche o assicurazioni, e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta. Dal 2016, con la tessera sanitaria, saranno inseriti anche i dati relativi a queste spese. La dichiarazione verrà messa a disposizione online entro il 15 aprile e il cittadino potrà accettarla così com'è oppure modificarla da solo con l'assistenza di CAFE professionisti, con scadenza il 7 luglio. Il governo ha tirato dritto con la novità, nonostante le numerose obiezioni di CAFE professionisti, in particolare sul regime sanzionatorio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Luca De Stefani, commercialista ed esperto di fisco per Il Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, è una buona notizia quella che abbiamo appena ascoltato o nasconde dei tranelli? No, sicuramente è una buona notizia, perché punta verso la semplificazione, che è appunto lo scopo di questo decreto attuativo della riforma fiscale. Diciamo che però bisognerà vedere come nel concreto si attuerà, perché se ad esempio l'Agenzia delle Entrate ci mette nel sito del cassetto fiscale del contribuente un importo cumulato ad esempio di tutti gli oneri deducibili, ad esempio i premi assicurativi, poi noi con i commercialisti non riusciamo più a fare i controlli effettivi, perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe fare degli errori, dimenticarsi di inserire una polizza assicurativa ad esempio, oppure metterne una in più che invece il contribuente non ha pagato, non si sa mai. E quindi ecco, io mi auspico che vi sia una analiticità nel dato fornito dall'Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del contribuente. Cioè, un rischio potrebbe essere che la dichiarazione precompilata non sia completa di tutti i dati, che quindi il cittadino la debba modificare, ma non sempre poi è facile da comprendere questo passaggio. Ricordiamo anche che, come alcuni hanno sbagliando a mio avviso scritto, non arriverà a casa, e stiamo parlando di una cosa online, giusto? Certo, allora va inserita all'interno del fisco online, della posizione fiscale che ogni singolo contribuente ha per chi l'ha già attivato o può avere, quindi consiglio a tutti già di attivarsi con la ID e la password nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate tramite appunto il servizio di fisco online. In alternativa, se non ci si vuole direttamente applicare in queste procedure, ci si può appunto avvalere di un CAF o di un commercialista che potrà vedere direttamente nel cassetto fiscale del proprio cliente il modulo precompilato, che verrà appunto inserito dal 15 aprile in poi del prossimo anno. Sì, infatti la novità riguarda il prossimo anno. Le faccio un'ultima domanda: assieme a questa novità arriveranno anche delle semplificazioni, o fare la dichiarazione dei redditi rimarrà comunque complicato? Ci sono molte altre semplificazioni per la tenuta della contabilità, penso ad esempio alle semplificazioni per i modelli Intrastat, per la normativa sulle solidarietà fiscale degli appalti, ma sono cose che non riguardano direttamente la dichiarazione di redditi. Per il modello unico, comunque per il 730, sarà sicuramente una semplificazione quella del modello precompilato, perché si hanno i dati che l'Agenzia delle Entrate riceve direttamente dalle banche, dalle assicurazioni, e quindi si ha un controllo in più. Noi commercialisti non dovremo rincorrere i clienti per recuperare la documentazione contabile, la documentazione che attesta la spesa detraibile e deducibile. Ricordiamo poi, nello specifico per il 730, la scadenza viene posticipata, perché la presentazione oggi è entro fine di maggio ad un CAF ed entro fine aprile ad un datore di lavoro, al proprio datore di lavoro. Il tutto dovrà essere presentato invece dal prossimo anno entro il 7 di luglio, quindi avremo molto più tempo per effettuare questo adempimento, speriamo appunto semplificato dai moduli precompilati messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Dottor De Stefani, la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a lei. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Queste le notizie principali della giornata. Paolo Gentiloni è stato nominato nuovo ministro degli esteri. La trattativa Stato-mafia, il Quirinale ha pubblicato sul sito internet della Presidenza della Repubblica la trascrizione dei verbali dell'udienza del presidente Napolitano. Cresce il numero di occupati in Italia, ma sale anche la disoccupazione, sempre più gente in cerca di lavoro ma non lo trova. E caos in Burkina Faso, la piazza contro il governo. Adesso ci spostiamo a Roma, questa mattina la 90esima giornata mondiale del risparmio, l'ha seguita Vincenzo Miglietta in diretta. Buongiorno, ciao Vincenzo. Sì, buongiorno, tradizionale appuntamento al Palazzo della Cancelleria per governo e mondo del sistema del credito. Molto attese le riflessioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, subito il giudizio di Via Nazionale sulla legge di stabilità, un giudizio positivo. Sentiamo allora Visco. In Italia, data l'eccezionale durata e profondità della fase recessiva, il governo ha opportunamente deciso di rendere più graduale il processo di riequilibrio dei conti pubblici, perseguendo al tempo stesso una strategia di riforma volta a innalzare il potenziale di sviluppo del Paese. La rapida definizione di tutti gli aspetti di questa strategia e l'attuazione dei singoli interventi nei tempi previsti sono indispensabili per il recupero di fiducia nelle prospettive della nostra economia. Bene dunque la legge di stabilità per Visco, c'è tanto da fare però secondo il numero uno di Banca Italia per uscire dalla crisi, per riavviare un circolo virtuoso tra attività economica e credito, spiega Visco, è indispensabile rivitalizzare la domanda per investimenti. Quindi il ministro dell'economia Padoan, anche lui sulla legge di stabilità, ascoltiamo. Gli operatori e i mercati hanno ben accolto la legge di stabilità, orientata al sostegno della crescita. Più in generale stanno accordando fiducia a un progetto politico che intende promuovere il progresso del Paese, sciogliendo i nodi strutturali che si sono accumulati nel tempo, favorendo la crescita delle imprese e l'afflusso di investimenti dall'estero. Tornare a crescere rappresenta anche una necessaria premessa per sostenere i risparmi, aggiunge Padoan, ed ancora conti sostenibili ridurranno le incertezze sul fisco. In chiusura il presidente dell'ABI Patuelli, che sulla vigilanza unica BCE chiede che le banche italiane non siano penalizzate. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Allora, come dicevo poco fa, nei titoli il Quirinale ha pubblicato sul sito della Presidenza della Repubblica la trascrizione dei verbali dell'udienza dedicata alla testimonianza resa dal Presidente Napolitano al Quirinale, lo ricorderete, un paio di giorni fa, sulla presunta trattativa Stato-mafia. Allora, si tratta di 86 pagine, quindi a questo punto non c'è ovviamente la possibilità di averle lette tutte perché la pubblicazione è avvenuta poco fa. In ogni caso, Raffaella Calandra in diretta, già buttato l'occhio sul sito internet. Raffaella, buongiorno. Sì, Enrico, buongiorno. Sì, più che altro sono andata a ricercare quelli che erano i punti già emersi quando martedì al Quirinale abbiamo ricostruito quello che il Presidente aveva detto attraverso le persone che avevano partecipato a quella storica udienza. Ebbene, è ad esempio a pagina 39 quello che è stato il passaggio considerato più importante da parte della Procura di Palermo, ossia la valutazione del Capo dello Stato sugli attentati sul continente del 93. Ebbene, queste sono le parole del Presidente della Repubblica Napolitano, che parla della valutazione delle autorità istituzionali e del governo che si trattasse di nuovi sussulti di una strategia stragista dell'ala più aggressiva della mafia. Così dice Napolitano rispondendo alle domande del PM Di Matteo a proposito delle bombe del 93. Si parlava allora in modo particolare dei corleonesi e in realtà quegli attentati che poi colpirono edifici di particolare valore religioso, artistico e così via si susseguirono secondo una logica che apparve unica e incalzabile per mettere i pubblici poteri di fronte a degli out. È questa l'espressione e il passaggio più forte di tutta la deposizione di Giorgio Napolitano davanti alla Corte d'Assise di Palermo al Quirinale, laddove è lo stesso Presidente della Repubblica che parla per la prima volta di un out di Cosa Nostra e dell'ala stragista di Cosa Nostra dei corleonesi ai poteri. E lo spiega ancora di più Napolitano, laddove spiega che questi out potessero avere per sblocco una richiesta di alleggerimento delle misure soprattutto di custodia in carcere dei mafiosi o potessero avere, sto sempre leggendo dalla trascrizione delle parole di Napolitano, per sbocco la destabilizzazione politico-istituzionale del paese e naturalmente era ed è materia opinabile. Questo, dicevamo, è il passaggio principale, come pure è un altro passaggio importante quando lo stesso Presidente della Repubblica ricorda il momento in cui l'allora capo della Commissione parlamentare antimafia Luciano Violante gli parlò della richiesta del sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino di un colloquio presso la Commissione antimafia, colloquio che poi non ci fu. 86 pagine come ricordavi, quindi a questo punto è tutto trasparente quello che in questa storica deposizione al Quirinale è avvenuto. Adesso continuerò a leggere per vedere se c'è qualche elemento che non è ancora emerso. Bene, grazie Raffaella, buon lavoro, buona lettura. Sono appunto 86 pagine di una deposizione che è avvenuta il 28 di ottobre. Come avete sentito abbiamo cambiato la nostra, come avrete potuto immaginare, abbiamo cambiato già un paio di volte la nostra scaletta per queste due notizie di pochi minuti fa, questa ultima della pubblicazione sul sito del Quirinale dei verbali dell'udienza di Napolitano e anche la notizia con la quale abbiamo aperto, cioè il nuovo ministro degli esteri italiano che è Paolo Gentiloni. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Padova. L'Università di Padova è la terza università più antica politica del mondo dopo Bologna e Parigi, ha preso una decisione che ha suscitato malumori e proteste fra gli studenti, perché ha abbassato a 5,5 il punteggio necessario ad un docente per rientrare nella cosiddetta fascia media, la zona della sufficienza nel questionario di valutazione che ogni anno gli studenti compilano per giudicare il lavoro dei propri professori. Buongiorno al rettore dell'Università di Padova, Giuseppe Zaccaria. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Abbiamo sbagliato, è sbagliata la notizia o questi studenti hanno ragione? Perché 5,5 di solito... No, non è affatto sbagliata la notizia, ma occorre dare qualche doveroso chiarimento. E innanzitutto l'Università di Padova è da 12 anni che pratica la valutazione con il... sentendo le opinioni degli studenti, quindi questionari di valutazione degli studenti, prima in forma cartacea, poi in forma online, e da alcuni anni il tutto viene messo su web in totale trasparenza. Allora, qui ci troviamo di fronte a questo problema. Queste opinioni degli studenti vanno intese non come rigide pagelle con decimali che certamente vengono dati, ma vanno intese come un modo per verificare se corrispondano alle aspettative degli studenti quelle che sono stati i comportamenti dei docenti. Quindi l'obiettivo è quello del miglioramento della qualità della didattica, cioè sono un materiale che viene offerto ai corsi di studio per migliorare la didattica. Ecco, da questo punto di vista non c'è stata nessuna differenza, nel senso che questi docenti sono messi sul web, tutti i nostri docenti in ordine alfabetico con il punteggio che hanno avuto dagli studenti, e devo ricordare che il punteggio medio dell'Ateneo è altissimo, quindi è quasi l'8 su 10, quindi è un grado di soddisfazione estremamente alto, quindi la vera notizia è che noi abbiamo un gruppo elevatissimo di docenti di cui l'Università di Padova deve essere fiera. Dopodiché c'è stato un numero limitatissimo di docenti, meno di una decina, che erano in posizione tra i 5,5 e i 6, come 5,8, 5,9, e sono stati messi in questa fascia, ma più per un incoraggiamento a migliorare le loro prestazioni che per un non cambia nulla. Quindi temo che sia un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua, sinceramente. Vedremo quale sarà anche la reazione degli studenti, che potrebbero decidere di essere un po' più severi nei giudizi. Ma lo vedremo. Certo, esatto. Questo certo, ma finora tutti gli ultimi anni ci hanno confortato di giudizi molto positivi e molto estesi. Bene, professore, grazie per essere stato con noi, la saluto, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Naturalmente, insomma, gli studenti, almeno dalle dichiarazioni che abbiamo raccolto anche su Facebook, hanno idee diverse, ma insomma è normale dialettica tra professori e studenti all'interno dell'autonomia universitaria. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora una buona giornata da Enrico Pagliarini. Paolo Gentiloni è il nuovo ministro degli esteri italiano. Il Quirinale ha pubblicato online sul sito internet della Presidenza della Repubblica i verbali relativi all'udienza di Napolitano di 2 giorni fa. Stiamo parlando della presunta trattativa Stato-mafia. Cresce il numero di occupati in Italia, ma sale anche la disoccupazione. Sempre più gente è in cerca di lavoro, ma non lo trova. È caos in Burkina Faso, la piazza protesta contro il governo. Adesso i mercati finanziari. Borse in diretta. Isabella Tasso da Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, iniziamo da uno sguardo generale, come vanno le borse oggi? Gli indici europei sono in forte progresso, a metà seduta. I listini del vecchio continente sono sostenuti dalla mossa sorpresa della Bank of Japan, che ha annunciato un ampliamento del quantitative easing di 30.000 miliardi di yen questa mattina. Come primo effetto la borsa di Tokyo è balzata di quasi il 5%, lo yen invece è sceso ai minimi contro il dollaro, oltre la soglia di 100 10. Tutti i listini europei sono sulla scia di Tokyo. Piazza Affari, FTSE MIB sale del 2%, FTSE All Share dell'1,9%, Parigi guadagna il 2,3%, Francoforte il 2%, Londra l'1,1%. Tra i titoli che cosa segnaliamo oggi? Ma gli acquisti stanno premiando tutti i comparti, compresi i bancari. Fanno eccezione ancora una volta Banca Monte dei Paschi, che fa meno 7,3%, e Carige meno 2,5%. I due istituti italiani continuano a essere penalizzati dopo la bocciatura al termine degli stress test sul Monte dei Paschi, che oggi è stato più volte fermo in asta di volatilità. Oggi il Sole riporta della possibilità che si proceda a un aumento di capitale, mentre da più fronti arrivano indicazioni di disinteresse per una fusione con l'istituto. Vanno bene invece gli altri titoli a maggiore capitalizzazione, mostrano tutti buoni progressi, soprattutto Autogrill più 3,8%, ST più 3,4%, Telecom più 2,8%, Exor più 2,7%. Bene anche Eni, che fa più 2,3% dopo la pubblicazione ieri della trimestrale. Chiudiamo con uno sguardo alle valute. Euro-dollaro, come vanno le cose? Euro-dollaro è sostanzialmente stabile, intorno a 1,26. Bene, grazie a Isabella Tasso da Radio Cor Il Sole 24 Ore. A presto. A presto. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'avete sentita nei nostri titoli la notizia che riguarda il Burkina Faso, dove si vive una sorta di caos dopo gli scontri degli ultimi giorni, una giornata di violenze, i manifestanti sono tornati in piazza questa mattina per protestare contro il presidente. È stata occupata la sede dello Stato Maggiore delle Forze Armate, mentre l'opposizione chiede le dimissioni del presidente. Sostanzialmente non si capisce chi sta comandando nel paese. Sentiamo maggiori particolari in questo senso. Servizio. Si è riempita di nuovo questa mattina Piazza della Nazione, nella capitale Ouagadougou, il cuore della protesta contro il presidente del Burkina Faso, Blaise Compaoré. Centinaia di persone sono tornate a manifestare contro un progetto di legge che avrebbe esteso ulteriormente i 27 anni di governo di Compaoré. Il leader dell'opposizione, Zéphirine Diabré, ha invitato la popolazione a mantenere alta la pressione e ha chiesto le dimissioni senza condizioni del presidente, che ieri sera aveva annunciato di non volersi dimettere, aprendo però al dialogo con l'opposizione, con la garanzia di cedere il potere dopo un periodo di transizione. Intanto centinaia di manifestanti stanno occupando la sede dello Stato Maggiore, che ieri aveva annunciato lo scioglimento del Parlamento e la creazione di un governo provvisorio, chiedendo che il generale Honoré Traoré lasci la guida delle forze armate. Un ex generale, Kwame Lugwe, è invece il nome invocato dalla piazza nel corso degli scontri di ieri per far cadere il regime. Fonti locali riportano che il militare sarebbe stato fermato mentre tentava di raggiungere i manifestanti nella capitale. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. Una notizia che riguarda la vicina Libia, dove questa mattina l'esercito ha annunciato di controllare tutti i quartieri di Bengasi. Le forze governative stanno rastrellando diversi quartieri per arrestare membri delle formazioni jihadiste. Testimoni parlano di violenti scontri. Negli ultimi due giorni sono morte almeno 13 persone. E adesso l'inchiesta di Daniele Biacchessi dopo gli scontri in piazza a Roma. A Palazzo Chigi i dubbi restano sulla gestione della piazza di Roma da parte delle forze dell'ordine contro i lavoratori della AST. E la redazione del ministro dell'Interno Angelino Alfano al Parlamento sembra non aver convinto del tutto il premier Matteo Renzi. Non è il solo ad esprimere imbarazzo e disagio, perché ciò che è accaduto in piazza Indipendenza resta una pagina nera nella storia dell'ordine pubblico italiano. Alfano, alle Camere, ha espresso solidarietà agli agenti e ai lavoratori, e va bene. Ha proposto ai sindacati un tavolo per gestire le prossime manifestazioni, va bene. Ma restano i problemi del comando. Nelle ultime settimane le forze dell'ordine sono intervenute a più riprese con strategie, dunque esiti differenti. Facciamo alcuni esempi. A Torino e Bologna contro le violenze di autonomi antagonisti, ma anche a Roma contro pacifici operai, mentre a Milano un semplice cuscinetto di polizia ha evitato il contatto tra due manifestazioni antitetiche della Lega e della sinistra. Da una parte la politica del manganello, dall'altra quella del dialogo con i manifestanti. Da una parte l'equiparazione tra soggetti violenti e non violenti, dall'altra la cogestione dei percorsi dei cortei. Più che la confusione, in queste ore sembra andare in scena il disordine pubblico. Non ha tutti i torti Lorena Laspina, segretaria dei funzionari della polizia, quando afferma che gli agenti finiscono finiscono poi col rappresentare un terminale sul quale si scarica la rabbia di chi scende in piazza a fronte di criticità e difetti di mediazione che non le sono ad alcun titolo imputabili. E allora, quale strategia adotterà nel futuro il Viminale? Bene, sono le 13:41 minuti, vi leggo una notizia di poco fa, sono in camera di consiglio da pochi minuti i giudici del processo che si celebra a Siena per la ristrutturazione del derivato Alexandria e che vede imputati l'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari, l'ex direttore generale Antonio Vigni e l'ex capo area della finanza Gianluca Baldassarri. La sentenza dovrebbe essere emessa questa sera, ma appunto non dovrebbe arrivare questa sera, ma appunto non c'è certezza. Adesso un po' di musica. Difficile riconoscerla, naturalmente il titolo dell'album è Joe Patti's Experimental Group, ma dietro questo progetto c'è un duo, l'ingegnere del suono Pinaxa e Franco Battiato. Com'è nato questo disco che recupera gli esordi del maestro degli anni 70? Marta Cagnola lo ha chiesto proprio a Franco Battiato, sentiamolo. Non posso dire che è una cosa voluta, no? Però fu una coincidenza di due ragazzi di 16 anni che mi hanno regalato due dischi, uno dei loro genitori nell'anno 72-73 li aveva registrati. Ho scoperto che c'era una modernità veramente, difatti anche in questo certi recuperi non si capisce qual è quella moderna e quella antica, diciamo, non si capisce. Cosa le ha lasciato questo progetto, che è una parte della propria vita? Sono tutte tappe. È difficile considerare oggettivamente le cose che scrivi. Io mi ricordo L'animale, no? Una canzone che credevo non avesse avuto alcun successo proprio. Un giorno, dopo 4-5 anni, dico quasi quasi la canto questa canzone. E migliaia di persone che la cantavano. Dipende che tipo di rapporto hai con una canzone in privato, quello è che cambia le cose, no? E sono rimasto allibito. Non succedeva con altre che magari sembravano più popolari e così, non è facile. Adesso che desideri ha? Di crescere come essere spirituale, questo è il mio fine. Chiudiamo con una notizia di sport. Inizia oggi il fine settimana di Formula 1 con le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti in programma ad Austin. Le qualifiche domani sera alle 19, la gara domenica sera alle 21, ora italiana. Naturalmente questa settimana la gara sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e Rai HD sul canale 501. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'ultima parte di Effetto Giorno va in onda dagli Stati Uniti, da New York, dalla redazione del Sole 24 Ore di New York, Mario Platero con America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The US economy is up 3.5% in the third quarter, capping the best six months in over a decade. Newscast televisivo, uno dei tanti. L'America ha un'economia in crescita, terzo trimestre di quest'anno, più 3,5%, dato preliminare. Potrebbe anche aumentare, chissà, comunque un dato che ha colto di sorpresa gli analisti. La borsa ha reagito molto bene, il Dow Jones è aumentato dell'oltre 1%, ci si rende conto che alla fine la crescita economica è solida con o senza quantitative easing della Federal Reserve. Quali sono stati diciamo gli elementi che hanno consentito all'economia americana di andare avanti? Beh, intanto una forte crescita dei consumi e degli investimenti aziendali. Perché questo può succedere? Beh, perché l'occupazione si è ripresa, 10 milioni di nuovi occupati da quando ci fu la crisi americana, 2,6 milioni di nuovi occupati soltanto nell'ultimo anno. Ecco, vorrei darvi però una chiave di lettura anche di questo dato economico, perché se è vero che anche le esportazioni sono aumentate del 7,8%, le spese della famiglia cresciute dell'1,8%, c'è un elemento però che secondo me è un effetto distorsivo, alcuni esperti lo calcolano addirittura nell'1%, e cioè la spesa governativa è aumentata di molto.